Marisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, come già ricordava il nostro GR24, puntata speciale, nel senso che terminerà alle 18, dalle 18 alle 18.30 avremo infatti lo speciale che Radio 24 dedica, ahimè, all'attentato di Berlino e aggiungo un altro, ahimè, anche all'ipotesi molto forte che vi sia anche un'italiana tra le vittime. Parleremo in questa puntata di due temi che poi sono due temi che ci trasciniamo tra virgolette dalla settimana scorsa. Uno si chiama Monte dei Paschi di Siena, da un lato, visto che si va verso, secondo molti osservatori, l'intervento dello Stato, la scadenza è 21. L'altro riguarda però Mediaset, più 24% in borsa in questo momento a 4,46 €. Che cosa è successo? È successo che Vivendi, come oggi su tutti i giornali, ha annunciato di voler arrivare fino al 30%, di voler portare la quota dall'attuale 20 al 30%, Fininvest al 38,2%, però la quota del 30%, spiego a tutti, è molto importante perché è la cosiddetta minoranza di blocco, cioè consente di bloccare la convocazione di assemblee straordinarie, nel senso che tu hai bisogno di almeno i due terzi degli azionisti, se uno ha già il 30% o tu riesci ad avere veramente il 60% del percento totale degli altri, ma insomma diventa difficile arrivare a quella cifra. Comunque col 30% tu di fatto blocchi la convocazione di assemblee straordinarie, ossia quelle che devono deliberare operazioni particolari, per esempio se un domani Mediaset volesse fondersi, fare un accordo con un altro gruppo. Quindi è una minoranza di blocco, come si chiama in gergo, molto, molto pesante, perché non hai, diciamo, sulle operazioni straordinarie, non sulla gestione ordinaria, ma hai veramente la possibilità di ostacolare qualunque convocazione di assemblea straordinaria. E tra l'altro la cosa interessante è che una volta raggiunta quota 30%, tu hai la possibilità di incrementare la partecipazione del 5% all'anno senza l'obbligo di lanciare un'OPA. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se Vivendi arrivasse da qui, diciamo, ai prossimi giorni al 30%, avrebbe poi la possibilità entro il 31 dicembre di comprare un altro 5% di Mediaset e arrivare al 35% senza bisogno di lanciare un'OPA. Una volta che poi tu arrivi al 45%, puoi continuare a crescere senza lanciare un'OPA, cioè l'offerta pubblica di acquisto su tutte le altre azioni. Il punto qual è che in questo momento è a svantaggio di Fininvest? Fininvest ha già usufruito del suo 5%, quindi da qua al 31 dicembre Bolloré potrebbe arrivare al 30 e poi dal 30 salire al 35 entro il 31 dicembre senza lanciare un'offerta pubblica di acquisto. Mediaset deve stare ferma. Poi è chiaro che dal 1 gennaio Mediaset può portare la sua quota in aumento del 5% e lo può fare anche Bolloré, perché vale una volta 5% all'anno. Una volta che arrivi a 45% puoi crescere quanto vuoi senza vincolo di OPA. Però il dato di fondo è che la frittata è già sta fatta, nel senso che se Bolloré arriverà, come presumibile, al 30%, ammesso che non vi sia già arrivato, tu hai già un socio dentro che pesa come un macigno, nel senso che, ripeto, può bloccare tutte le assemblee straordinarie, che può crescere fino al 35, quindi dal 1 gennaio ti ritroveresti in media siete intorno al 40 e Bolloré, potresti ritrovarti e Bolloré e Vivendi al 35. Ora, rapporti che nemmeno così distanti. Ecco perché molti ritengono che, al di là dello scontro in questo momento e delle posizioni che sta tenendo Fininvest molto ferme, bisognerà arrivare a un accordo prima o poi, oppure lanciare un acquisto su tutto il restante, ma molto molto oneroso. Allora, oggi il ministro Alfano, neo ministro degli esteri, ha detto nel corso di un incontro a Parigi con l'omologo francese Jean-Marc Ayrault di essere molto preoccupato. Ho espresso al collega Ayrault la forte preoccupazione del governo italiano per quanto riguarda un'operazione che dovrà essere valutata dalle autorità preposte. Abbiamo grande rispetto delle regole del mercato, pretendiamo altrettanto rispetto delle regole di mercato. La Consob sta indagando dopo l'esposto presentato da Fininvest. dovrebbe già esserci un'audizione dei rappresentanti di Vivendi prima di Natale. È un'inchiesta a carico di ignoti, invece quella aperta dalla Procura di Milano con l'ipotesi di reato di manipolazione di mercato. L'accusa di Fininvest qual è? È che Vivendi, dopo aver fatto l'accordo ad aprile per Premium, l'ha rotto poi a giugno, se non ricordo male era giugno, giugno-luglio, e in questo modo il prezzo delle azioni Mediaset è calato vistosamente. E secondo l'accusa, questa, la rottura dell'operazione su Premium sarebbe stata propedeutica poi acquistare a un prezzo più basso le azioni Mediaset dopo la notizia. Questa è la, diciamo, la manipolazione di mercato a cui si farebbe riferimento. Di questo parleremo subito, dicevo, e anche della vicenda Monte dei Paschi di Siena. Il governo ha chiesto sostanzialmente al Parlamento l'autorizzazione a un ulteriore indebitamento fino a 20 miliardi di euro, sono circa l'1,2% del PIL, quale misura precauzionale per garantire eventuali interventi di sostegno alle banche. L'impatto sarebbe sul bilancio 2017. Il decreto dovrebbe arrivare probabilmente entro giovedì o venerdì. Ricordo che l'articolo 81 della Costituzione prevede che venga autorizzato, modificato nel 2012, prevede che venga autorizzato dal Parlamento a maggioranza assoluta il ricorso all'indebitamento ulteriore per far fronte a casi eccezionali. È un fondo che non è solo per il Monte dei Paschi, però avrà come primo compito intervenire nella parte, diciamo, non sottoscritta, diciamo, dell'aumento di capitale, ma soprattutto intervenire nel ristoro sulle obbligazioni subordinate. Le altre banche che potrebbero beneficiare sono proprio Vicenza, Veneto Banca e Cassa del Risparmio di Genova. Non dovrebbero invece entrare le quattro Good Bank, ossia ciò che resta dalla popolare Etruria di Nuova Banca Marche, Carife e Cari Chieti. Tra l'altro Chieti ormai viene data per certa come in braccio, come fusa dentro la banca UBI. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Per quello che riguarda il resto del mercato, anche se oggi la borsa è soprattutto riguarda soprattutto Monte di Mediaset, vedo già molti messaggi: Telecom non era strategica e Mediaset sì. Lo so, questa è, ci sono varie, con tutto rispetto per il governo, ci sono varie contraddizioni, perché è stato permesso a Bolloré di salire al 24% di Telecom, azienda dove l'elemento strategico poteva essere rivendicato con più forza dal governo, e adesso in una scalata di un gruppo importantissimo, televisivo, editoriale, però si definisce, non si definisce strategica, ma insomma il governo ha espresso il suo malumore per le modalità dell'operazione. Bella domanda. Dicevo, resto della borsa: UBI Banca più 5,70, Banco Popolare più 4%, Banca Popolare più 4, Biper Banca più 3, Buzzi Unicem più 2,5, Banca Mediolanum più 2,30, Unicredit più 2,20%, Italgas più 2. Chi perde oggi? Il Monte dei Paschi, il 2%, Recordati l'1,5%, Campari l'1,30%, Atlantia lo 0,80%. Avremmo voluto parlare anche, e lo faremo nei prossimi giorni, di un'altra operazione Francia su Italia, ma che riguarda il mondo del vino, mi riferisco alla Biondi Santi, assieme a un'altra operazione Italia, quasi Italia su Italia, e cioè Gruppo Moretti Bellavista, che rileva la Sella e Mosca dal Gruppo Campari. Però lo faremo nei prossimi giorni, perché, ripeto, ahimè, la cronaca da Berlino si impone. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie, in breve. Allora, vedo molti che scrivono: ma da quest'estate adesso, dove erano i vertici Mediaset? Ma è innegabile che adesso vi arriviamo, però, che nella vicenda Mediaset i vertici quantomeno si siano un po' distratti, perché non ti possono scalare in questo modo e tu non te ne accorgi. Però ormai parliamo del latte versato, cioè adesso il punto è cosa succederà nel futuro. È ovvio che qualcosa non ha, dal punto di vista dell'azionista di riferimento Fininvest, qualcosa non ha funzionato. Così come il fatto, adesso col senno di poi è facile dirlo, anche il fatto che Mediaset nel frattempo sia scesa come quota, Fininvest sia scesa come quota in Mediaset, col senno di poi uno poteva dire no, forse conveniva tenerlo quel 5% circa che aveva ceduto. L'indice complessivamente: Milano guadagna l'1,20%, Parigi lo 0,50%, Francoforte lo 0,35%, Londra più 0,20%, Dow Jones più 0,45%. Andiamo avanti con il resto per quello che riguarda dati di carattere internazionale. Oggi Wall Street ha macinato, sta macinando nuovi record. Il Dow Jones marcia verso i 20.000 punti e tra l'altro la soglia anche psicologica, quella dei 20.000 punti, Nasdaq in rialzo. Su questo, e quindi anche sulla reazione, devo dire, non assolutamente sensibile a quanto accaduto ieri tra Ankara e Berlino, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Malgrado l'alta tensione sullo scenario europeo e internazionale, provocata ovviamente dagli attacchi terroristici a Berlino e in Turchia, i mercati finanziari continuano ad ignorare a pie pari qualunque tensione che non appartenga al QE o ai titoli di Stato. Una giornata positiva, nuovi record storici in Europa, positiva anche sui mercati finanziari americani e soprattutto una giornata dove non si è vista nessuna corsa ai rifugi sicuri, anzi è corsa a rischio, come dimostra il record segnato dagli indici stocks europei. Come giudicare dunque questo comportamento? Sicuramente siamo in un ambiente finanziario ormai totalmente condizionato dalla liquidità che viene dalle banche centrali e ormai quasi esclusivamente dalla BCE, un segnale positivo per il risparmio ma sicuramente preoccupante in vista della scadenza proprio di questo programma. Resta solo un anno a Draghi per stabilizzare il mercato finanziario europeo e soprattutto le banche. La domanda di tutti è che cosa succederà quando finirà il paracadute della liquidità e tutti torneranno con i piedi per terra, soprattutto le borse. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora qualche notizia in breve. Dunque, per quello che riguarda l'Unione Europea e i disoccupati, l'Italia ahimè ha il record di disoccupati che non cercano lavoro, il 13% della popolazione attiva, e qui attenzione, ci saranno anche i NEET, i ragazzi che non studiano né lavorano, ma c'è anche l'effetto scoramento, tu non cerchi lavoro molte volte perché rinunci a cercare lavoro. Ed è tra i 4 peggior paesi in quanto a istruzione della popolazione in età da lavoro, oltre il 40% al massimo il diploma o si è fermato alle medie. Tra l'altro è aumentato il numero delle persone che vivono in nuclei familiari senza lavoro, resta stabile il livello di disuguaglianza sociale sebbene sia superiore alla media europea e anche è positivo rispetto al resto d'Europa il gap salariale uomo-donna, nel senso resta, è aumentato ma è sotto il 3%, cioè uno dei più bassi d'Europa. E poi ricordo l'INPS di ieri: in 10 mesi le assunzioni stabili hanno fatto meno 32% sull'anno. Qualcuno mi chiede un commento qua alla dichiarazione del ministro Poletti. Insomma, Poletti ha fatto una gaffa, si è scusato poi dopo aver detto, commentando la fuga di 100.000 giovani, non è che qui siano rimasti 60 milioni di pistola, conosco gente che è andata via, che è bene che se ne sia andata, perché questo paese sicuramente non soffrirà a non averli più tra i piedi. Poi ha chiesto scusa, mi sono espresso male, non mi sono mai sognato di pensare che sia un bene per l'Italia il fatto che dei giovani se ne vadano all'estero. Guardate che su questo, insomma, usciamo anche dai luoghi comuni. Il punto è molto semplice, ministro, è che fa bene a un giovane andare a fare un'esperienza all'estero, ci mancherebbe, e fa bene, serve al tuo curriculum. Il problema è A, se non torni più, B, quanto tu lo faccia come, diciamo, esperienza per aumentare il tuo curriculum e quanto tu sia obbligato, perché non c'è nulla. Quindi i flussi migratori dal sud al nord, sappiamo che il 60% degli studenti meridionali che lasciano, diciamo, che studiano non nella loro città d'origine, non torna più nel nostro mezzogiorno, e vale anche per gli studenti che vanno a cercare un lavoro fuori, studenti o diplomati che vanno a cercare un lavoro fuori. Per me, se è un'esperienza o se è un obbligo, però, insomma, questo è un tema sempre molto scivoloso, no? Come quando Michel Martin, che era sottosegretario welfare, definì sfigato chi non si era laureato entro i 28 anni, i bamboccioni di Padoa-Schioppa. Stiamo attenti, anche perché, diciamo, chiudiamola con una battuta, ministro Poletti: una cosa è certa nella fuga dei cervelli da questo paese, che non colpiscono mai la politica. Sì, la fuga dei cervelli non colpisce mai la politica, è uno dei settori che ne viene salvato, anche i giornalisti, potrete aggiungere, e va bene, me lo dico da solo. Allora, ancora due notizie in breve. Oggi la quinta edizione degli Stati Generali della Cultura, organizzati come ogni anno dal Sole 24 Ore. Da questo punto di vista è intervenuto anche il ministro Franceschini. Devo dire che si è fatto un bilancio dell'utilità dell'Art Bonus, che ha generato comunque finanziamenti per 2 miliardi di euro, soprattutto al 70% da privati, 25% da aziende. L'importo medio dei versamenti dei privati è stato intorno ai 1.500 euro, quello delle imprese intorno ai 125.000 euro. L'Art Bonus, ricordo che prevede la possibilità di arrivare al 65% di credito d'imposta di quanto tu investi in cultura, da spalmare in 3 anni fino al massimo del 5 per mille del fatturato dell'impresa. Su questo e su un bilancio dell'Art Bonus, la nostra Alessandra Schepisi ha intervistato il ministro Franceschini. Non c'è un meccanismo legislativo che possa imporre di fare scelte di donazione attraverso l'Art Bonus dove non c'è la spinta a farli. Naturalmente questo sta dentro un problema che c'è in tutto il paese. Ma mi pare che complessivamente l'Art Bonus stia funzionando molto bene. Superata la fase sperimentale, sono più di 100 milioni di donazioni, sono oltre 3.000 donatori. Naturalmente è l'inizio di un percorso che io spero duri molti decenni, quindi stiamo sulla strada giusta, ma si può crescere ancora molto, anche in modo più equilibrato sul territorio nazionale. La cultura resta sempre il volano dell'economia? Mi pare che in questi anni sia cresciuta la consapevolezza che investire in cultura non è soltanto una cosa che fa bene alle menti, alle anime, ma fa bene anche all'economia del paese. Lo ha capito con Anticipi Solo 24 Ore, lo ha capito con Pindustria. Mi pare che le scelte che sono state fatte di crescita consistente della quota di bilancio dello Stato destinata ai beni culturali dimostrino che il governo e il Parlamento complessivamente credono in questa opportunità. Nel mondo della globalizzazione l'Italia è riconosciuta come una superpotenza culturale. Investire in questo vuol dire far crescere l'economia, creare occupazione intelligente, aiutare i giovani che hanno talenti. È importante dappertutto che privato e pubblico condividono una missione del paese e poi ognuno fa la propria parte. L'Art Bonus è importante per questo, non solo per il vantaggio fiscale che dà ai privati, cittadini e imprese, ma anche perché li spinge a impegnarsi per la tutela del patrimonio culturale della nazione o per contribuire alla vita di musei, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri, mi pare una cosa molto importante anche dal punto di vista educativo e pedagogico. I wanna be free. Allora, sì, qualcuno mi segnala che anche l'ex ministro Fornero sui ragazzi chiusi. Io lo dico, state attenti ogni volta che parlate dei giovani, di chi cerca lavoro, soprattutto se lo fa un politico, bisogna stare un po' più attenti. E ripeto, fermo restando che a me il ragazzo che va all'estero a lavorare non mi fa nessuna pena, anzi penso che fa pena solo la mamma perché non torna più a casa a pranzo. Però detto questo, da lì a dire che è bene che alcuni se ne siano andati con la situazione che abbiamo sul mercato del lavoro giovanile, non solo, eh no. Ma poi dico, ma perché non star zitti? Andiamo al non in bail-in, perché nessuno si augura un bail-in, ma andiamo all'operazione Monte dei Paschi. Tanto il governo si porta avanti, appunto, ha chiesto fino a 20 miliardi di euro al Parlamento, l'1,2% del PIL, per garantire eventuali interventi di sostegno alle banche. E allora le altre banche sarebbero proprio Vicenza, Veneto Banca e Cassa di Risparmio di Genova. Se dovessero entrare soldi pubblici a sostegno di queste banche, queste banche potrebbero entrare tranquillamente nella nostra classifica del venerdì. Lo dico perché abbiamo sempre tenuto fuori i privati e quindi anche le banche. Ma come arriva un euro di soldi pubblici, anche la lista, non è che non abbiamo parlato di Vicenza e Veneto e Cassa di Risparmio di Genova, però anche la lista si allunga, perché tutte le volte che c'è un euro pubblico quello può finire nella nostra classifica. So che non ne frega niente a Zonini e a Consoli, però quando l'autorizzazione all'indebitamento, così il Presidente del Consiglio Gentiloni. Abbiamo avviato un'operazione che definirei salva risparmio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una relazione al Parlamento che autorizza il Governo a ricorrere a questo fine all'indebitamento. Si tratta, voglio dirlo chiaramente, di una misura precauzionale. L'autorizzazione fino a un ammontare di 20 miliardi, vedremo se si renderà necessaria. In ogni modo abbiamo considerato nostro dovere varare questo intervento salva risparmio e mi auguro che questa responsabilità venga condivisa da tutte le forze in Parlamento. Molti nelle scorse settimane hanno invocato spesso un intervento, una responsabilità pubblica a tutela dei risparmiatori, e da domani in Parlamento avranno l'occasione per confermare questo atteggiamento. E poi ascoltiamo anche il ministro Piercarlo Padoan dopo l'ok appunto del Consiglio dei Ministri, è arrivato ieri l'autorizzazione delle Camere per l'aumento all'indebitamento. Ringrazio però per averci già raggiunto in collegamento Alessandro Graziani, che oggi ha scritto in prima pagina sul Sole 24 Ore proprio della vicenda Monte dei Paschi e di quello che dovrebbe capitare a breve. A brevissimo Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti. Ascoltiamo anche Padoan sulla ricapitalizzazione che dovrà avvenire nel rispetto delle norme europee. E poi le misure, a cosa serviranno le misure messe a disposizione, quindi per liquidità e aumenti di capitale. Questa misura deve essere attivata su richiesta di un istituto bancario che rispecchi i requisiti dell'intervento precauzionale, quindi sia una banca viabile, che però possa presentare in condizioni di stress estremo un fabbisogno di capitale maggiore di quello che ha a disposizione. Naturalmente, in generale, il criterio di ricapitalizzazione a scopo precauzionale deve essere anche sostenuto da interventi che rispecchino la normativa europea, ma su questo andrà verificato il caso per caso, qualora questo si verifichi. Il primo ordine di interventi riguarda la garanzia di un adeguato livello di liquidità al sistema bancario, anche con garanzie pubbliche, per ripristinare la capacità di finanziamento a medio e lungo termine, ove si rendesse necessario. E, in secondo luogo, potrebbero essere utilizzate queste risorse per un programma di rafforzamento patrimoniale di banche mediante interventi per la ricapitalizzazione, che prevedono anche la sottoscrizione di nuove azioni. Questo ammontare messo a disposizione da questa operazione salva risparmio ha, ove attivata, un impatto sul debito, ma questo impatto sul debito è da considerarsi un impatto, una misura one-off, temporanea, e quindi che non impatta sulle grandezze di natura strutturale e sull'aggiustamento strutturale. In ogni caso, ove si dovesse rendere necessario l'utilizzo di queste risorse, le modalità di rientro della finanza pubblica e del debito verrebbero dettagliate e certificate nel documento di economia e finanza. Allora, Alessandro, poi ti lascio più spazio dopo il meteo, ma insomma andiamo verso l'intervento dello Stato, no? Il 21 è domani, per cui insomma. Alessandro? Sì, domani scade appunto la prima parte, la conversione delle obbligazioni in azioni del Monte Paschi. Mm-hmm. Giovedì scade il collocamento delle azioni agli investitori istituzionali. Da quello che trapela per il momento sembra che l'adesione sia abbastanza scarsa e quindi a questo punto è molto probabile che giovedì, quando il governo emanerà il decreto, Monte Paschi sarà il primo a chiedere l'intervento pubblico nel capitale della banca. Ma per cosa? Per il ristoro sulle obbligazioni subordinate e la conversione forzosa? Il tema è che Monte Paschi deve fare un aumento di capitale da 5 miliardi entro il 31 dicembre, come ha chiesto la Banca Centrale Europea. Se questo aumento di capitale sul mercato non è possibile, si accede alle risorse di Stato e, come ha detto il Ministro prima, si entra nella dinamica della negoziazione con l'Unione Europea sulle regole del burden sharing e quindi con la condivisione dell'aumento di capitale da parte anche degli obbligazionisti subordinati. E lì interverrà lo Stato sul ristoro? E lì, stanti le regole attuali, quello è un po' il problema vero, perché alla fine la normativa si chiama salva risparmio, ma il tema riguarda principalmente i 40.000 obbligazionisti subordinati che, secondo le regole attuali, dovrebbero subire la conversione forzosa in azioni, e quindi non più quella volontaria, a condizioni molto peggiorative. E il rimborso dovrebbe essere possibile solo nei casi in cui si dimostri che c'è stata vendita truffaldina allo sportello. Truffaldina, sì. Quantomeno insomma, senza curarsi del profilo di rischio, per cui esatto. Non varrà per chi ha comprato queste subordinate, lo spiegavamo negli ultimi tempi, nel senso che tu non le compri sul mercato secondario. Se nel 2008 te le hanno vendute come obbligazioni sicure, tu avevi un profilo di rischio molto molto basso, quindi un pensionato piuttosto che un cassettista classico, un risparmiatore, e le hai da allora, avrai sicuramente più chance. Alcuni dicono, lo chiamano salva risparmio, ma in realtà è il salva banche. Sì, ho capito, le due cose non sono in contraddizione, nel senso che salvare il risparmio, salvare la banca significa anche salvare il risparmio dei correntisti che lì hanno i soldi e anche degli obbligazionisti. Comunque, dopo il meteo, le altre domande 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, Alessandro, in maniera più estesa, raccontiamo cosa capiterà a questo punto, con ogni probabilità, da giovedì. Adesioni molto basse, anche perché, come scrivono molti ascoltatori, se tu sai che insomma rischi la conversione forzosa e il governo interviene per ristoro, magari aspetti. Adesioni molto basse e Monte dei Paschi primo cliente, diciamo così, del nuovo fondo. A questo punto sembra molto probabile. Naturalmente fino a giovedì il tentativo privato sul mercato va fino in fondo e questo è anche un obbligo da un punto di vista giuridico, perché solo dopo aver dimostrato che il tentativo sul mercato non è andato in porto è possibile che lo Stato intervenga con il salvataggio. E poi naturalmente con l'intervento dello Stato molto dipenderà dall'interlocuzione con l'Unione Europea sulla tutela degli obbligazionisti, perché una delle richieste possibili è quella di che lo Stato possa in qualche modo rimborsare subito gli obbligazionisti per l'intero valore, ma l'Unione Europea su questo invece per il momento è in opposizione e dice che gli obbligazionisti devono essere convertiti in azioni a un prezzo quindi molto svantaggioso e solo successivamente poi essere rimborsati con i tempi e le procedure che tutto questo richiede. Non ci dimentichiamo che gli obbligazionisti delle quattro banche salvate l'anno scorso in questi giorni iniziano ad avere i primi rimborsi, quindi come minimo passa un anno. prima che i rimborsi poi possano avvenire. È vero che queste obbligazioni coinvolte scadono nel 2018 e quindi comunque uno avrebbe ottenuto indietro il capitale a scadenza nel 2018. Allora, e le altre operazioni, chiedono molti ascoltatori, le altre operazioni possibili, devo rispondere però a un ascoltatore, immagino Vento, che dice, dove? Barisoni, ma vai a fare in... Vabbè, le popolari erano pericolose, i Venti hanno pagato 20 miliardi di tasca propria. E adesso invece con i soldi dei Venti salviamo Monte dei Paschi. No, guardi, è un po' diverso. A parte il fatto che anche Anton Veneto era Veneto. No, ma è un po' diverso. Nel caso, ahimè, che abbiamo raccontato decine di volte, di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, lì si trattava di possessore di azioni. E allora, se tu hai comprato lo sportello azioni a 67 euro o a 47, che poi sono scese a 6 euro e poi a 10 centesimi, erano azioni. Il dramma qual è? È che non erano azioni quotate in borsa, perché la borsa avrà tanti difetti, ma un compratore nell'arco di una giornata lo trovi sempre. Invece in quel caso i clienti, gli azionisti di Pop Vicenza e Veneto Banca andavano in banca e nessuno e non si trovava mai un compratore per le loro azioni, né a 60, né a 50, né a 48 euro. Però erano azioni, e se tra l'altro prestiti baciati da un lato o azioni date in cambio dell'erogazione del mutuo, su questo sta indagando anche la magistratura, ma erano azioni, un caso un po' diverso con le obbligazioni strutturate. Dicevo, Alessandro, quali potrebbero essere i prossimi, oltre Monte dei Paschi, che diamo tutti per scontato? Beh, oltre a Monte dei Paschi, come dicevi, appunto, ci sono le due ex Popolari Venete, Veneto Banca e Popolare Vicenza, che all'inizio dell'anno prossimo molto probabilmente dovranno deliberare un aumento di capitale da 2 miliardi e, non essendo quotate e di proprietà del Fondo Atlante, è difficile che le risorse possano essere trovate. Se non fossero trovate sul mercato o dal Fondo Atlante, dovrebbe per forza intervenire lo Stato, ma anche, ecco, in quel caso in particolare si aprirebbe un ulteriore problema, perché tu accennavi agli azionisti, ma nel caso in cui intervenisse lo Stato nelle due Venete, anche lì bisognerebbe, seguendo le regole europee, coinvolgere gli obbligazionisti subordinati, che nel caso delle due popolari spesso coincidono con gli ex azionisti, nel senso che erano molto spesso i clienti delle due banche che avevano sottoscritto sia azioni che obbligazioni, quindi un'ultima situazione delicata. Un'ultima domanda, Alessandro, ma per quello che riguarda invece la cifra complessiva, cioè 20 miliardi, non è che nascono, non ce li giochiamo all'otto, è la cifra che dovrebbe dare abbastanza solidità o sicurezza per gli interventi di cui, a cui abbiamo accennato, eventualmente anche altri? Sì, la cifra è sicuramente ampia, perché le stime che sono state fatte già oggi sono solo 24 ore, che di questi 20, 17 siano riservati per gli aumenti di capitale, di cui 5 del Monte, 2 delle Popolari Venete, arriviamo a 7, e poi ci sono una serie di piccole casse di risparmio, che comunque non sono poche, ma che hanno importi minori, diciamo che intorno si arriva intorno ai 10 miliardi. Il resto è un residuo di rete di protezione futura per chi dovesse averne bisogno. Allora, grazie a Alessandro Graziani, scusatemi il gioco di parole, mentre saluto Ciao Condina. Per il resto della borsa, al di là di Mediaset, di cui parleremo fra un attimo, più 1,5% Milano, bene in generale tutte le banche, immagino per via anche della prospettiva dell'aiuto di Stato, e poi la borsa complessivamente è spinta da Wall Street. Ciao a tutti. Sicuramente era Milano avanzava solo dello 0,1-0,2% a metà seduta, poi Wall Street ha aperto puntando nuovamente i suoi massimi storici, Dow Jones ha ormai a un passo, quota 20.000 punti, e ha chiuso in volata appunto Milano a più 1,47%, ricordiamo il forte peso del settore bancario sul nostro indice principale, ne è prova il fatto che Milano è la migliore d'Europa, Parigi ha recuperato solo mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,3%, anche Londra lo 0,37%. Migliori e peggiori, Visibilia Editore meno 8%, Modelleria Brambilla meno 5,60%, il migliore Mediaset, adesso ne parliamo, poi Pininfarina più 17%, Gambero Rosso più 12%, Italia Independent più 11%. Grazie anche per il breve collegamento a Ciò Condine. Andiamo sul traffico e poi con Antonello Olivieri la battaglia. Una battaglia che, ragazzi, ma se ne avessimo parlato 5 anni fa, che Fininvest rischiava di perdere non il controllo che c'è ancora, ma certo, di non essere più l'azionista unico di riferimento di Mediaset, avrebbero chiamato la Neuro. Comunque, traffico. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, ultima parte di Focus Economia. Il 23,3% di rialzo di Mediaset è una botta incredibile. Non so se sia già la quota che ha Bolloré, perché il 20 ce l'ha sicuramente. Però ha annunciato ieri che Vivendi vuole arrivare al 30%. Spiegavamo prima, nel ringraziare Antonello Olivieri, il potere della minoranza di blocco, cioè che blocchi deve avere almeno i due terzi degli azionisti per convocare assemblee straordinarie, per operazioni straordinarie, per esempio un accordo di fusione e quant'altro. Quindi c'è un potere forte in chi ha il 29,9%, perché vuol dire che devi cercare tutti gli altri azionisti e sperare che tutti siano d'accordo con te, e con una Fininvest che ha un po' più del 40-43%, se non ricordo male, delle azioni di 38 ancora, e il 5, esatto, quella vecchia, quindi 38% vorrebbe dire, insomma, cercare proprio sul mercato tutti gli azionisti per arrivare a un 70%, difficilissimo. Sì, no, diciamo matematicamente impossibile, perché quasi il 40 c'è la Fininvest, il 30 ce l'avrebbe Bolloré, avanza a, cosa avanza? Un 30%. Un 30%, che però, cioè, diciamo, è più facile per chi ha il 30 raggiungere un terzo dei presenti in assemblea, certo, e quindi esercitare la maggioranza di blocco, cioè, che tu per chi ha il 29,9 ai due terzi. Con il 29,9 ti basta avere un azionista che abbia il 2 e sei già al 31 e blocchi qualunque. Mentre chi è al 30, nel caso di Fininvest, al 38% dovrebbe cercarsi l'altro, il mancante, quindi il 32% mancante. Voi capite che è una fatica di Sisifo. Ma detto questo, Bolloré arriverà, ammettiamo che arrivi, vista l'andazzo di borsa, al 29,9. È già anche probabile, perché è la stessa, è la replica di quanto abbiamo visto la settimana scorsa. Certo. Ecco, 29,9. A quel punto, se arriva al 30 scatta l'OPA, però. Se supera il 30 scatta l'OPA, ma lui ha detto in questa fase che sta appena sotto. Dopodiché, che cosa voglia dire? Cioè, perché sta appena sotto? Perché vuole stare lì a esercitare il ruolo di minoranza di blocco? Perché ha in testa qualche cosa che noi non abbiamo ancora capito? Perché però Antonella, io vedo un altro problema. Perché vuole superare il 30 e lanciare un'OPA? Che è anche possibile. Che è anche possibile. Io vedo un po' cara a questi livelli di prezzo, però. Certo. Io vedo però un altro problema. Ammesso e non concesso che, diciamo, il confronto fra Fininvest e Vivendi si placchi, il problema è che adesso, se anche vi fosse una forma di accordo, sarebbe altamente passibile del cosiddetto concerto, cioè quando si scopre che due azionisti sono d'accordo, la legge dice no, tu è come se fossi un soggetto solo, perché sennò tu potresti avere il controllo con tre amici, ognuno si piglia il 29,9 e tu non lanci mai l'OPA. Invece la legge dice no, se tu sei in concerto, cioè in accordo con qualcuno, devi comunque lanciare l'OPA. Quindi com'è possibile arrivare a un accordo tra i due senza che parta l'accusa di concerto? Vorrebbe dire che sicuramente dobbiamo escludere che il primo e il secondo azionista si possano mettere d'accordo sulla stessa società. E quindi? E quindi vorrebbe dire, bisogna vedere se l'accordo non vuol dire una spartizione o cose strane, dove però ognuno sta da una parte, l'altro sta dall'altra, perché tutti e due in Mediaset non ci possono stare, su questo non ci piove, non c'è nessuna possibilità di accordo, mi dicono gli avvocati, che nemmeno potrebbero farsi una telefonata. Quindi, perché basterebbe una telefonata per far scattare l'accusa di concerto, e quindi obbligare Vivendi e Fininvest a lanciare un'OPA sul restante, che a questo punto è più o meno il 30%. Ma a questo punto dice, perché non lo fanno? Beh, perché evidentemente Vivendi ha più risorse di Fininvest, e quindi vorrebbe dire che Fininvest si troverebbe con una partecipazione bloccata perché non più quotata, e magari con in casa il padrone francese. Non è plausibile. Ecco, però qualche ipotesi su come andrà, quale sarà lo sbocco di questa vicenda sta circolando, Antonella. Quale? Sta circolando, Antonella, punto di domanda. No, credo che si navighi abbastanza nel buio, per il fatto che puoi fare delle supposizioni, però Bolloré ha sempre sorpreso tutti, quindi. No, perché io capisco la famiglia Berlusconi e quindi Fininvest, che è stata, in maniera, alcuni scrivono, anche un po', ha un po' dormito, un po' sonnecchiato in questi mesi, anche perché ricordo che a febbraio 2015 la Fininvest ha ceduto quasi l'8% della sua quota in Mediaset per capitalizzare, perché dice tanto col 35 riesco a controllare Col 38 riesco a controllare il gruppo, così non è, adesso gli farebbe comodo avere quei 7, quasi praticamente avrebbero già risolto la questione, però lì furono incauti, non hanno visto in questi mesi la scalata e cosa gli stava montando su Bondore, per cui posso capire lo spiazzamento della famiglia Berlusconi. Quello che capisco meno è dove vuole arrivare Bondore, nel senso che insomma, mentre Berlusconi si sta difendendo e sta correndo i ripari, l'altro un progetto ce l'ha da almeno qualche mese. Beh, insomma, è quello che sospetta Mediaset e anche Fininvest, e vabbè, è quello che sembra ogni giorno sempre più possibile, è che effettivamente Bolloré abbia interesse per Mediaset, nel senso che non sta facendo un'azione di disturbo per farsi togliere la causa per danni su Premium, sta, secondo me, sta davvero puntando a controllo di Mediaset. E con le buone e con le cattive, sembra proprio, perché... No, perché voglio dire, nell'arco di una settimana abbiamo assistito prima alla comunicazione che si arriva al 3, tempo di rispondere a quella che si arriva al 20, certo. Tempo di mettere mano alla Consob e agli avvocati ha detto che sarà al 30, il mercato comunque scommette su qualcosa di più grosso a questo punto, con un 23%. Ma sai, se sta davvero rastrellando sul mercato e tu chiedi tutte quelle azioni quando il flottante si sta asciugando, perché sì, certo, ne hai già rastrellate tu, ne hai già rastrellate Fininvest, il prezzo aumenta per definizione. Certo, uno dice, ma com'è che è così disposto a fare Babbo Natale, visto che siamo prima di Natale, può darsi, a pagare così tanto di più di quello che era il prezzo di mercato? Però non siamo nella testa di Bolloré. Una cosa la possiamo escludere, che lui non abbia un piano. Io non so se Fininvest abbia un piano o stia solo correndo ai ripari. Ma secondo me sento... ha un obiettivo. Il piano lui è capace obiettivo, anche di adattarlo in corsa. Sono d'accordo con te. Allora, per quello che riguarda questa puntata, ricordo che c'è lo speciale di Focus Economia, scusatemi, lo speciale di Radio 24, ahimè, sulla tragedia e l'attentato di Berlino. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Ringrazio Antonello Olivieri e ringrazio voi in ascolto. Il programma torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.